sì, infatti, tanto già lo sai, non c'è problema, tu arrivi bene, bello pimpante da lì. Ok, da. Alle prossime, tu. Ci sentiamo, ciao. Ciao. Hola, mi sentite? Grazie, attenzione, prego, mi copiate. Io Antonio sono. E avanti? Avanti sul canale 10. Hola. E avanti? Scusa Anto, ero io. Credevo di essere sul 19, stavo facendo delle prove lì. Questo è il 48, adesso sono in camera da letto, com'è? Buono, tutto buono, anche quello. Ascolta, che Alan 48 è, quello antico o quello SMD moderno? Oh no, antico. Ci ho rimesso questo qua perché c'è il 68, ma quello che c'era 34 canale, no. Lo devo controllare perché era molto tempo fermo e cosa, devo tutto spruzzare, qualcosa stare per i contatti, metterlo un po' a posto, mi sa che l'ho fatto da Antonello. La prossima settimana me lo faccio mettere a posto di smitter di tutto. Perché no, non va più, cioè un po' fermo e cosa, però è un buonissimo apparecchio, caspita. Eia, a me sta piacendo molto quello nuovo, quello Alan 48 scritto in lettere, e gli hanno fatto un bel LED luminoso per lo smitter, lo stesso i bordini delle manopole sono illuminati, molto molto carino d'aspetto, però cavolo, ne vogliono quasi 200 euro nuovo. Ma ha sempre costato la 48, anche quando c'era questo ci hanno sempre fatto ben pagare, anche da fuori, se tu ricordi. Sì, con la scusa che era omologato, che era conosciutissimo da camionisti eccetera, te lo facevano pagare un sacco di soldi. Ascolta tu, tendi bene l'orecchio, dimmi se senti saturazione, un po' di saturazione anche minima, oppure se la radio è normale. È perfetta. Catta, sto pilotando con 5 watt, 5 e mezzo modulati, massimo 5 e mezzo modulati, ci avrà 70 watt di uscita, almeno Guarda, è veramente perfetta la modulazione, è una bomba. Certo. Comunque io ne ho due, quello 68 lo voglio mettere a posto perché è un peccato. È veramente quello che c'ha 34 canali, cioè 68 così, 68S cos'è? Perché è una bella radio come questo, voglio mettere a posto di smitter e di tutto. Perché sono radio che sono buonissime. Peccato che qua non posso mettere nessun amplificato, perché io ho tutte le connessioni per il 3009, no? Superstar, e questo invece ha le stesse connessioni dell'Alan 48, ma è tanto nello. Io non ho le connessioni. No, ma io no, cioè i miei microfoni sono cablati per il 3009, poi per gli apparecchi strani ho gli adattatori, tipo da 6 pin a 4 pin Midland, oppure da RG45 a Superstar sempre, però no, non ho microfoni adattabili al momento. Ho buscato MB2 4, ne ho buscato un altro a gratis, era tutto reno, era un dietro le viti, adesso va anche quello, cioè dove fare le connessioni, averlo abbattere a 68, cioè quello che ho, lo faccio ripulire tutto, mettere a posto bene, perché è un baracchino che ha bisogno di una piccola manutenzione, ma funziona che va proprio bene, bene, bene. Eia. Nessuno è entrato, no? Cioè non c'è nessun altro su 10, no? Oh no. Perfetto, meglio così. Nessuno. Ma è possibile che la 48 col tipo vecchio l'ho visto anche a 100 euro? Guarda, anche usato, chi lo vende fa il prezzo. C'è chi ce l'ha originale, chi ce l'ha con qualche modifica. E quindi boh. Purtroppo con i componenti classici non lo fanno più, bisogna accontentarsi della versione nuova, chi lo vuole nuovo, e se no uno se lo prende usato, però usato non sai mai cosa, in che condizioni te lo danno, capito tu? Chiappa, ma vabbè, che condizioni, se c'è cazzate uno lo mette a posto, va bene la radio, non c'è niente di che. Come ne ho io uno, che c'ha qualche cazzatina, ma la radio funziona, è proprio egregia, funziona benissimo, funziona. Cioè, se lo metto a posto funziona bene. Sì, sì, ha voglia. Quello del 78 era quello piatto, un po' piatto, no? No, quello che è uguale al 48 ma ha meno canali. Quello c'ho io. È preciso. Ah, vabbè, stai sempre parlando del 500S. No, c'è anche quello. Sto parlando del 48, che è preciso. È preciso a questo, Però ha 34 canali, capito? Ah, l'Alan 68, sì, hai anche quello, sì, quello ha, mi pare, 24-25 canali normali e gli altri vanno sotto l'1. Il 40 c'è la normale perché l'ho aperto. Ah, vabbè, l'hai migliorato, diciamo, dai. Antonio, buonasera, mi hai sentito da Giovanni Stanco che ti saluta, cambio. Cappa, saluto da Giovanni Stanco, caspita, bella forte pimpante. Gli arrivi benissimo anche tu, bene. Fa un po' che non ti sentivo, vabbè, non ci sto più entrando. Ho fatto trasloco e l'ho piazzato ieri. Ma perché non asse, sembra forte qua. Vabbè, siamo vicini, mi sono spostato, adesso sono a Cinzioba. A Cinzioba, sì. A Cinzioba, così è. Sì. Aspetta. Alla Buddy Buddy, diciamo, giusto? Sì, sì, alla Buddy Buddy. Mi sembra due voci, sì. L'ho piazzato ieri, cioè avevo problemi con il commutatore, poi c'è stato un Antonio che mi ha aiutato, mi ha fatto qualche riscontro radio e piano piano sono riuscito a rimetterlo a posto, dai. Ah, l'antenna sempre quella? Sì, sempre quella. Infatti sei quasi a fondo scala qua. Posso dire di te la stessa cosa, non ti credere che sei sotto mio. Vabbè, io sono la peroccia lì, Marelta. Si accorcia a fare un giro di smitter. Sì, ma pure a Plattalona mi arrivi fossi, Sì, lo so, già usciva bene lì, forse era più aperto lì in quel punto, Non lo so, adesso chiediamo a Marco, che lui è qui dentro città. Come ti arriva? Anto, con questo smitter non posso dare i controlli, finché non lo taro. Potrei attaccare però l'altro un attimo, aspetta che metto già il canale, eccomi qua, un attimino che è comodo, e così gli do un controllo normale di segnale. Ok, cappa. Comunque, qua è fortissimo, vabbè che io ce l'ho a poco. Cioè, cosa fare? Fare i nonni, di Legnaraglia siamo vicinissimi, siamo. Io sono a Lima Delta proprio, alla Peroce. Passare Legnaraglia, cosa è? Ma manco un chilometro. Alla Peroce. Tanto, vicino, stavo cercando tu pure. Lo sai che fai tu? Ma chi è il tuo caratteristico? Dov'è? Ma la mia antenna. Sì, guarda, sono vicino, poi per caso la tua, lì all'aria sono due assi, dai, diciamo. E dov'è l'antenna? L'antenna mia, vediamo se la trovi. Allora, io sono sulla Puti Puti, adesso. Ecco qua. Manda avanti l'amico Franco Stanco, che gli diamo un controllo di segnale. Ciao anche a Christian. Ah, c'è Franco Stanco anche. Quando è rientrato? Franco, vieni avanti. Cristian, Giovanni Stanco, non Franco, Giovanni Stanco. 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio, cambio. Perdonami, sbagliato. Allora, segnale 9 più 15, 9 più 15, centro città, Viale Trento Alta. Da. Sì, grazie. Ho capito, ti ringrazio. Praticamente sono a 400 metri da Piazza d'Italia. Lì sei bello in alto, eh. Non molto però. Anzi, ho tutta la collina di... La collina di Via Gorizia, Via Prunizzedda che mi copre completamente. In più c'è poi il Monte Alto che mi copre verso la Budi, capito? È un peccato. Lo pensavo, ti pensavo più aperto. No, sono più aperto per Alghero. Cioè, di portata ottica io d'orizzonte c'ho Stintino, vedo la zona industriale di Predanietta, solo quella però, la città no, vedo la zona industriale di Predanietta, Stintino, l'orizzonte di Alghero, anche se ci sono poi i monti in mezzo, però proprio zona vostra sono chiuso, però bene o male il segnale viaggia poi. Avanti Christian. No, a me va abbastanza bene, anche Giovanni mi va benissimo, anzi. Qui si sta a fondo scala, io sono in macchina, sono la doccia. Dove sei che sei a fondo scala? Mica la stai uscendo, mica la stai uscendo. Sono in via Pasqua de Gama. Io là, aspetta, i baracchini mi avete rotto le scatole, io, dai, parlate con Mulo a parlare. Io spegnete il baracchino, per favore, dai. Fuoco. Eia, ma che si sente adesso? Sono più vicino a te. Ciao. Sono lì in zona, sono. Prova a indovinare dove sono. Però io sono attaccato al 747 adesso. Sono già messo attaccato, ma vediamo. Un po' di saturazione. E adesso lo stato infatti. Ciao Luca, ciao Franco. Ciao Marco, buonasera anche a Giovanni, non so chi ti sia. Stavo spazzolando qua, ho messo in funzione questa radio dove la stavo andando. Più che perfetta. E poi Franco e Luca sono 9.25 e tenente a 9 più 30. Dopodiché è finito lo Smith, di più non va. Di un altro. Cristian! Buonasera! Sto giorno per il latte dolce oggi! Già vabbè, c'è anche Antonio, ciao Antonio, buonasera, anche Giovanni Stanco, ma buonasera, senta che sto cucinando il rubettino che si è cagato. Giovanni! Ciao Franco, ciao, ti ho mandato un messaggio stamattina, ma visto l'hai? A dire la verità non c'hai quel cellulare appresso, capito? Me l'ho dimenticato giù. A fondo scala come sempre qua, fra da me. Fondo scala, addirittura. Eia, lo sai, dai. Eia. Già va bene. No. Bene così, va bene. Oh Cristian, a me bene, mi ascolti lì. No, sei sulla fondo scala e basta. mi stai lasciando il led, mi stai mettendo fuoco anche. Addirittura. Allora già va bene, vuol dire che sta funzionando bene questa antenna. Io sono piccolo e brutto. Marco, è da te com'è? E te l'ho detto, allora con il tuo apparato eri 9.25 tenente al 9.30 e oltre non va. Adesso ho cambiato apparato, però c'è lo smitter da tarare, quindi no, non fa testo. Adesso arrivano bene, 5.9 più 30 qua, di lusso alla grande Marco, non c'è problema, va bene. Vabbè, non ha senso, siamo tutti attaccati mi sa qua, sono 70 watt qua. Boh, io sto scendo con 10 watt modulati. Io 5. Giovanni, 5 watt, mi pare. Vic 2, poco nuda. All'inizio non c'è più, adesso c'è con 5 watt omologati. Però anche io sono omologato adesso. Io c'ho con 5 watt, dai, diciamo. E 1-0 finale aggiuntivo? No, il 747, sta sedile. E io praticamente sto usando quasi lo stesso linearetto, solo che è marcato RM Italy, ma dentro il 747 c'è questo linearetto, il 203, RM Italy, KL 203. E noi c'è da sedile parcheggiato, perché è più comodo, guarda, no, non si vede. Vanno bene, il 747 è un bel linearetto. Vanno bene. Non si trova più, è vero. Ah, sì, signor Cascoli. Non ne ho più visto il 747 in giro. Sì, si trova, non so cosa costa. Costa più di 100 euro comunque. Io ce l'ho, un caso raro che ce l'ho ancora io. Non so perché, l'hanno tolto dal catalogo Midland, l'hanno tolto. Chi ce l'ha ancora è la GBC e lo vende a caro prezzo, molto caro prezzo. E poi forse qualche rivenditore online ancora c'ha qualche rimanenza, però ne chiedono troppo, cioè tanto vale pigliare il 203 RM Italia, identico, stessi finali, stessa scheda, uguale, identico, stessi watt, non satura e non è male, dai. Costa meno di quello della Midland. Ma era quanto costa? Una trentina di euro? No, 60 euro. 60 euro fai più, che ne so, 8-9 di spedizione. Ma il Midland, sai perché costa un bel? Paghi il nome. È come l'Alan 48. Paghi un bel nome. Alla fine, sono tutti gonfiati quei prezzi. Ma infatti, Marco, ci fanno pagare la marca. In definitiva è così. Ok, dai, che provo un'altra radio, avevano mi ascoltate, che ci devo un po' di tempo fermi e sto mettendo in funzione. Riprendi, Marco. Sì, mi faccio girare. Giovanni, avanti. Sì, stavo pensando a tutti quelli che ho bruciato di lineari. Ne ho bruciato un casino, ne ho bruciato, cazzo. Ne avevo uno bellissimo, anche quello. Era un D... 2002 ne pare, anche quello l'ho tutto bruciato. Sì, Giovanni, ti voglio segnalare che ogni tanto si attratti, cioè ti cade la portante. Sì, penso che sia il microfono, Sì, magari il PTT da pulire e basta. Che altro c'era? Baramobile, io stacco un attimo, vado a bere, vado in bagno, eccetera. Vai Cristian dalla Baramobile. No, guarda, io vengo sto passeggiando oggi, che non voglio manco di lavorare. Sono uscito lì, un'oretta, magari ci vedo che mamma sta male, c'ho la vicina di casa che la sta assistendo adesso. E ci uscito un'oretta, tanto a svuotare il cervello fuori di casa. E questa portante? Quella che entrava già. Ah, buffonendisi, questa cosa si dice. Se no a lavorare, se no dinano per me. Punto. Sì, il problema è lavorare, sai cos'è? Che è proprio rispetto, ed è tipo un corpo da portare. Adesso c'è un'amica di a mia vicina, a casa, che mi ha dato un'oretta di tregua per uscire un pochettino dopo due giorni. Qua la situazione è simile, molto simile. Ormai siamo a casa, io e mamma, tutta la famiglia è andata. Ma come quando si diciamo, vizio, mamma mia, per lo meno avrei caciuto. Abbassa i rangi. Mamma mia, signori miei, guarda. Vieni qua. Scusate, ma... Un po' più di testa, Gabriele. E questo è niente, mi aspetta quando cresce, che diventa prepotente pure. Un mego poco da buffonata. Ma per un bello. C'è caduto, vieni. Vieni adesso, vieni che fa caro, vieni. Vieni. Mamma mia, qua me ne conviene tutti i gatti di curorica. Sono bambini, a sera non lo credo, sono fatti due. Senti, sei il borso, a modulato. Sacro cuore. Appa, questo è bello forte. È arrivato, mamma mia, adesso sto freddino, mamma, che è arrivato la ora. Che... Stasera c'è il mio collega, c'è... Ma la lavorato stamattina io. Capo bravo. Cosa? Capo bravo adesso. Ma io non lavoro, non mi piace a me, sa. Ma mi sento un ostaggio, cazzo, io stavo bene davvero. Per stare col bambino e cosa, ma porca miseria, là, guadagnavo bene pure. Quando c'era la stagione avevo soldi. Avevate, ma con chi fammi, porca miseria. Perché il problema era che dovevo lavorare di notte. Dovevo lavorare la notte ed era un casino, capito? Sì, sì, bravo ragazzo, se non bevi non fumi. Non posso bere, no? E neanche io posso bere, ho smesso. Non posso bere perché non sto bene in salute. Se no mi ha dato una gracchettina, me l'ha pigliata, ma non è più come una volta, no? La voce mi sta mancando. No, io sono da 20, da quando ce la facendo in tasca, da 15 anni. Sì, avanti. Ehi, buonasera a tutti, doppio. Oh, ciao già. Ciao Antonio, ciao, mi sembra tu Cristian. Ciao Gianni. Ciao. Chi sei? Cristian, che posso essere? Cristian. Ah, c'era Luca e Giovanni Stanco, c'era. E anche California. Ciao Marco. Ciao Gianni doppio rum. Ciao ragazzi. E allora che si dice? Così, passando la serata, passando il tempo, grazie a Dio che entra qualcuno in questo baracchino. Ogni tanto, o troppo o niente. Io ero a fare una spesa, sono rientrato adesso. Ho fatto metà della spesa per Pasqua e adesso devo prendere solo il secondo. Ho preso la viola, ho preso un sacco di roba. Cioè, ho preso un sacco di soldi, la fanno. Oh, è vero che c'è la Pasqua in arrivo, vabbè, bisogna assorbirsi un po' di parenti, vabbè, stringiamo i denti, sorridiamo forzosamente e si va avanti. Vai Cristian. Per la Pasqua non si prende a Pasqua, sono io, mia madre, passa, poi il resto sono tranquillo. Piuttosto speriamo che il tempo sia buono, Pasqua o Pasquetta, perché in base al tempo o ce ne andiamo in terrazza a Sassari oppure in campagna. Guarda, io abito già in campagna, allora ho preso tutti di casa, guarda. Secondo me è andato, può andare a lavorare io. O meglio il lavoro che i parenti, fidati. Per la poca ma sicuro. Tu puoi dipendere dai parenti, eh. E io ma quando vengono i carabinieri, guarda. Il maresciallo. Ui, quella mi fa trottare. Carabinieri. C'è un marito, va. Quale marito? Il marito al maresciallo. Niente marito. Ah, scappola. Scappola. Spalla e scappola. Single. Ehi, ma ha fatto bene mi. Così come sto facendo bene io. Almeno dopo le balle. Vabbè. A lungo termine parlo, roba a lungo termine alla fine. Non so, io ho un'idea tutta mia già. Come diceva Natalino, il buon Natalino, dicevo, la donna è nata dalla costola del diavolo, non di Adamo. Infatti io sono veramente single. Guarda, ragazzi, mi ha dato, guarda, ne scegli una e te la bombi, perché si è visto, si è visto. Così bisogna ragionare. Ah. E poi ti metto così io. In effetti, una spruzzatina ogni tanto, niente impegni. Cosa fa, miei figli? Grazie signore, cosa mi tocca ascoltare? È la verità già. Apri, vai sul sito, c'è ma che incontri, scegli la più bella, la più che ti piace, vai. I cui due colpi te ne danno a casa, felice e contento. Non devi essere né fidanzato né niente. È quello già il re, no? E altro tu dovresti ragionare diversamente. Dare una persona che accudisca tuo figlio, eccetera, ti farebbe comodo. Ma se si timo già. Cioè, non mi niente vantaggio a me, cioè, capisci cosa ti voglio dire io, cioè. Io sto temendo, perché non voglio che il mio figlio mi fa male. Cioè, perché io ho un caratteraccio pure, cioè, se tratta male mio figlio, io poi... una belva umana di fatto. Ho paura per troppa gente che andaccia. E anche quando ci te se mai riuscirai. Provare per credere, diceva Iazzone. Purtroppo le donne guardano la bellezza, guardano. Non guardano più l'abito familiare. È bello, ma fa quello che deve fare. Non guardano che uno vuole la famiglia, vuole una stabilità, vuole una cosa seria. Guardano perché è bello, poi se non serve niente, vabbè, pazienza, ci ho provato. Purtroppo ragionano così le donne. E si conferma. A te, tu Antonio. E non sono tutte così, a parte che chiamano... Che libera mia cugina Rina, amica, chissà di la Landriga. E gare chissà. Mi sei pure immussato. Cazzo la canzona, no, Rina, io la voglio. E che sei faticona? E di ditti di buccia, voglio. Ciao, doppio room. Ciao. Ma chi sei? Dammi Gudoio. Allora, tu sei... stanco. Ho capito, con te con ballo so con peso, tutti a me no. Ciao, ben sentito, dai, come va? Tutto bene, già, tutto bene. Meglio così, dai. E non ti ho salutato, però io pensavo che tu fossi andato già via. Hanno detto c'era stanco, c'era quello, e poi dice da pizzo. Ero in ascolto già, ero in ascolto. Allora, lo sai che io lo saluto a tutti. Con le orecchie, con le orecchie. Avanti, va. Via. Va bene, io stacco già. Già siete in buona compagnia. Ci sentiamo, ritenetevi tutti super salutati e buon proseguimento di serata, ok? Vai Gianni. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo, dai. Grazie per la benedizione. Ciao Marco, ci sentiamo, avanti Giovanni. Ciao Marco, buon proseguimento di serata, ciao. Ciao Marco, auguriti. Cristian, ma dove sei? Io? In via Padre Zinaro. In via Zinaro? Esatto, via Padre Zinaro. Sta arrivando bene, 9:10, 9:15. Sono attaccato, sono le 4:07. E non me l'hai beccato? Sì, sono da anni. Ah, ecco. No, io lo stavo cercando uno, per non mettermelo qua. Che difesa c'è adesso che è staccato? Cosa? Guarda adesso che è staccato. Adesso diciamo che la voce è più chiara, però provo a vedere. Adesso è staccato. E c'è 9:05. Già bene l'antenna, dai, già funziona bene. Ciao, non c'è problema, io ti ricevo alla grande. Adesso non lo stacco, infatti, se mi scarica la batteria. Sì, con l'antenna sul tetto, poco da cosa. Però sul tetto funziona tutto bene. Beh, c'è un radiatore in macchina, non ho problemi, però... Che antenna ha messo, Cristian? L'antenna che aveva la mia solita antenna, sempre, quella che avevo io, la Lemma. Quella mini turbo. La Lem, quella piccola, quella da 1,5 metri. Va bene, dai. Già sta fungendo bene. Ma infatti avere antenne molto lunghe non conviene. Io ce l'ho del 2001 che non l'ho mai toccata, è nuova, mai usata, mai messo PL, niente, ce la mette anche PL. Viva! Avanti! Dai, via va! Era semplicemente uno qua, ciao Gianni, ciao Antonio, poi l'altro piccolino non so chi è, saluto anche a lui. Un attimo di bianco da parte mia che sono al telefono, scusatemi. Ciao Antonio, va bene, siamo qua. Meno male Torino che ogni tanto accende. Ho messo la pena, l'ho infilata, allora chi c'era, ho provato, dai. E ma per poco mica, domani sono già di nuovo tra Marco. Ma oggi sei figlio? Io ce la riposo. Antonio, ascolta, cosa posso mettere per struccare dove sta scendendo la vernice, la pittura? Stucco oppure va bene anche il cemento bianco? Ma dove? Nelle pareti o nel soffitto? Nel soffitto. No, sto cane non si vede, cazzo è un casino, eh. Ho però che mi di rasante, un filo di rasante. Mi so se la giocatura si vede sempre brutto. Ho capito. Bisogna che mi dici da farlo col lavoro, perché se no non mi biasi così. Io quei tipi di lavori li ho sempre odiati. A me se qualche volta mi è uscito ho detto no, non so per mestiere, non ne faccio. Perché andare sulla scala a fare i soffitti è la cosa più odiosa che c'è. I muratori già sopra che lo fanno, io ho mai fatto, infatti ho sempre odiato il muratore, ho imparato tutta altra cosa, ma no, che è un muratore. Sembra così, ma sulla scala a camminato, fare faccia. No, ma io avvicino il tavolo, capisco, ci arrivo. Vabbè, lo so, però devo usare la paletta americana, bella, mettere un filo a strisciare, fare un liscio, e fare così, ma se la moderato c'è anche Antonio, Antonio. Ehi, ci sono, buonasera. Buonasera anche a te, sempre bene, ti arrivo tu. Sì, una bomba, sì, qua. Siamo anche in un tiro di schioppo, tra me e te. Ma sei sempre là, sì, sempre dove a San Camillo. Scappa, sempre lì sono, e chi mi tocca da qua, ma. Sì, in linea d'aria siamo vicini, me. Però, allora, Gianni, in linea d'aria mi sembra che sia leggermente più distante, però io prendo più forte Gianni che a te, non ho capito perché. Io non lo so quello. Forse perché c'ho il palazzo davanti, c'ho il palazzo a 5 piani, se no è arrivato molto più forte, è arrivato. Perché c'ho quel palazzo che mi compro un po' la booty booty, mi copre. Però si vede, la mia antenna si vede da via Vasco da Gama, dall'altra via, la vedi bene, la vedi. C'ho questo cavolo in palazzo a 5 piani che mi copre un po', se no già era arrivato un bel fuoco da te, molto forte. Dal mio cancello io vedo tutta la zona di Gianni, tutta. È normale, io ce l'ho coperta la booty booty, un pochino, perché c'è un palazzo che mi copre. Magari c'è un palazzo, la pitta, a volte ci sono degli ostacoli, ma passa, non va, non è che io tu la rimpassa, tu non è che tu rimpassa, tu mi chiami lo stesso. Non c'è rimedio, Anto, un po' di tritolo e un po' di palazzo. Chiappa, vedi, mi arriva, Gianni mi arriva molto più forte di te, per dire. Chiappa. Cosa stavi dicendo? Ma, Uglia, non mi viene adesso, Tonino. A me dicevi? Perché ti ha coperto Gianni, un attimo. Gianni, mi ti faccio le dita a me. Mi ti faccio mangiare quattro gelati, mi ti faccio alzare la glicemia a me. Ma l'ho fatto apposta, tu. È stato il volontario. Adesso tu che apparato stai usando, Tony, con che microfono? Perché adesso stai uscendo benissimo. Sto usando sempre lo Shure e la Fayette, quello del 2004 FM. Vedi, per questo qui lo Shure riesce bene, Tony. Con l'altro non mi piaceva, boh, non so che cosa stavi usando l'altro giorno, non mi piazzi. Un papà usa stavo usando. Ma non penso che sia così basso, no, da te, Ordoni. Che cosa così basso? Sì, Gianni ti arriverà più forte, ma non penso che arrivi così basso basso. Cioè, non penso che arrivi meno di Gianni, no. Qualche cosa è meno, sì, ma non di meno di meno. No, di poco. L'attimo non ce l'ha fatta. Esce di sotto e non si capisce né tu né lui, capito? È poca roba di differenza, ma io l'ho rotto perché passo in locale e so già la differenza, capito? È poca roba. Però Gianni è più forte come segnale. Però se parlate insieme non passa nessuno di due. All'incirca siamo. All'incirca siamo quasi precisi, dai. Quasi. Non proprio il preciso perché non c'è. La Gianni arriva un po' più forte perché ha aperto. Però siamo quasi lì, dai. Cappa, chi è che rimane tra i uscendo male? È impossibile che esca male. Guarda, per te sono Gianni 9.40, tu 9.37, siete lì, capito? Io semmai che sono fuori, sono coperto nella curva anche da che tanto, per dove sono io sto facendo abbastanza bene, poi. Secondo scala qua. Siamo, capito, Tonino? Purtroppo c'ho questo palazzo qua che mi copre 5 piani, che mi dà un po' di fastidio. E quindi qua verso quella parte un po'. C'è cosa, dottore Squalo, dimmi tutto. Buonasera. Buonasera mia, a tutti quanti. Anto, stai uscendo a fischi, stai uscendo. Te lo stanno dicendo da poco fa che stai uscendo a fischi. No, forse ci siamo sovramodulati. Sono qua, non arriva a fischi. Ciao, dottore. Ciao, dottore. Sto sento bene, Antonio, non sto uscendo a fischi. Ciao, dottore. Forse dipende dal tetto. No, forse ci siamo sovramodulati per quello. Perché qua Antonio esce perfetto. Niente fischi. Tu invece la voce è bassina, invece Torre, sempre la solita voce, però è bassa come radio. Perché non c'è più apparato, tu? No, sto uscendo con quello da 4 watt, l'emologato. Guarda adesso. No, no, la voce è proprio, microfono proprio normale, l'hai usato tu. No, sto utilizzando il più 5, con il 48. Torre, non hai amplificato come per chi l'ha omologato? Ok. Amplificato. Amplificato è? Sei you. In capitano la bazzino. Gianni, ti sembra il microfono amplificato? No, non sta amplificando proprio nulla. Non sta fungendo tu, esce a basso di radio. Cerca di attrezzarti, ma dice che stava disturbando, per quello sta arrivando quello lì. Io sento basso lo stesso di radio, dai. Vado a vedere adesso. Ma chi è quello che arriva un po' bassino? Sono io il bassino. Tu bassino sì. Come il segnale, come radio, chi sì? Cristian, ma io sono in via Parizzinano parcheggiato, eh. Ah, ho capito. Sì, come forse sì, beh, in macchina se trovo il dubbio. Allora è giusto che arrivi, senti come mi dici, sì, comunque dai. Vabbè, se vuoi meglio, dai. E io come ti arrivo là in via Parizzinano? Senti, allora per radio 5. Già va bene, dai. Ho capito, tu sei là perché stai aspettando qualche bella ragazza che prende l'autobus per Itiri, giusto? No, sto aspettando un amico che so a Gadauri, per recuperare un amico, tennista. Ho capito. Va bene, Gianni, riprenditela. Gianni, c'è caduto, vatti a tu. Comunque per essere lontano un po' dalla città tu esci molto forte, arrivi fortissimo. Ma cosa c'è? Sempre come quella che c'ho io, c'hai anche tu. Quella preradiale. A me stai dicendo? Ho detto sempre quell'antenna preradiale c'hai. Quelle radiali corti corti, davvero c'ho. Ah sì, no, io c'ho la cosa, la. Tipo quella che ci assomiglia alla Energy, la GPS della Sirio. E poi la matessa antenna a me. Che c'ha tre radiali c'ha. Sì, con questo mi sentite? Forti? Proprio belli grossi, perché almeno la cornacchia quando si appoggia non vuole rompere le spezza, capito? Quindi. Oh, se mi trepa. Ti sentiamo già. Cappa. Sì, no, anche questi, capo, sono resistenti molto, anche se sono un po' più lunghetti. Stanno capata di quella curraccia che c'era per l'altra arena, la mazza di Nivaria. Perché sono belli, belli, belli pieni sono, se no me li avrebbe già spezzati. Cappa, avanti già. E sto provando questo qua, vedere se esce. Tra 2-3 mesi metto il palo 12 metri. Vai già. Avanti. Fai passaggio. A me sta dicendo qui. Sì, sì, qui sei fondo scala, E questo qui è un bel apparecchio, là. Era un po' che non lo stavo usando. La radio com'è? Perfetta, squillante, come la solita tua. Una bomba, una bomba. Dai, io faccio un attimo di bianco, che vado un attimino a preparare il mangiare, dai. Ce la risentiamo. Beh, ti arrivo via Padre Girano a te. Tutta scala qui, Cappa, la grande. Che vado a preparare il mangiare, dai, ce la risentiamo. Vai a preparare il mangiare, vai. Ebbene, abbiamo mandato la cuoca in ferie. Ciao, le carica batterie, dai. Ci sentiamo, avanti già. Ciao Antonio, buona carica. Ciao Antonio, ne approfitto per salutare a te e anche a tutti quanti gli altri, anche perché quando schiaccio do problemi in casa per la televisione. Ciao, buon proseguimento a tutti quanti. Ciao, non potrebbe succedere? Boh, di solito non succede perché sono di questa frequenza, che strano. Dai, ci sentiamo stanco. Giovanni, dai, stammi bene. Ciao Giovanni, buon cuoretti, stammi bene. Ciao Giovanni e buon cuore stanco. Oh già, qua si aumenta leggermente di radio. Com'è adesso? Beh, adesso io c'ho l'altra parte, questo è il rimizzo disegnato. No, il radio ha aumentato il volume dell'amplificatore. Sta va bene. Ok. Amplifica, sì. Che amplificatore c'ha? Che? Che amplificatore stai usando? Ehi, il mio amplificatore ha brochure. Ah, capito. Io sto cercando 747, se lo trovo non lo prendo. Nuovo però, perché è usato magari tu CAD. Nuovo, se lo trovo su internet me lo prendo, o di nuovo. Ma quello della ZG? Cosa? Quello della ZG? Sì, quello che esce con 100 watt. Ah, ho capito. Anche troppo c'è questo qua. C'ho mentre cane passeggiato, esce bene lo stesso. Ho attaccato questo qua, va bene questo qua. Quando mangio il mio cane, stacco l'antenna, la butto per terra, boh, e rimasto 2-3 mesi fermo. Tori, sei tutta fischia adesso, sta innescando. Aspetta. Mi sa che quando alzi esci tutto strano, capito, innesca. Adesso è normale. Sì, perché sono troppo vicino alla tuporante del baracchino, c'è la tuporante esterno io praticamente, capito? Non sto usando la tuporante del baracchino, ma è troppo vicino per il primo applicato. E quindi sto usando la tuporante, ma entra e fa casino. Va bene comunque, come prima poco fa, eh? Ciao, ciao. E oggi mangio leggero, ma va bene in salatozza e siamo a posto. Come va? Hola, hola. Oh già, ho notato che hai picchi negativi. La radio è amplificata tu. Sì, ma c'hai picchi negativi. Che se da 9.40 te decidi a 9.30. Che roba, guarda. Abbassa, abbassa. Cosa devo abbassare? Non c'è nulla da abbassare. L'antenna può abbassare solo, abbassa. Ora, ora, così va meglio. Basta, stai saturando la modulazione anche. Ora. Lascialo così. Però è metallica come modulazione. Sì, vabbè, quello non è un problema. Però mi sta dando 30 watt. Aspetta un attimo che devo regolare. Anch'io ho 30 watt sotto. Bello Tony, come mi senti? Capo, un po' così lo mangiate, sento. Io sento a tutti. Guarda, adesso sono con il 747 attaccato. Ogni tanto lo risveglio dal coma da sedile. E poi c'è in macchina, giustamente, non si può pretendere, non sei come un'antenna da 50 vedonda sul tetto, eccetera, capito? Io per esempio l'antenna mia, ho il palo in terra, proprio in terra, sono in campagna, e c'ho un palo di civitri più l'antenna sopra. E ti posso dire che con tutto il vento che ha fatto, manco rigori l'ha fatto l'antenna. Ho i miei tiranti giustamente per il tubo, perché l'antenna non c'è niente, quindi sopporta molto il vento. Ottima come antenna, per il costo che ha, guarda, ci portava in onda, è perfetta. Oh, no, ti sento benissimo a te, io tranquillo, ti sento tranquillamente, poi sono un ascolto, ti sento bene. Gianni, torna su 10, fai da bravo. No, stavo regolando, perché avevo tutto stazionare, ma non ho regolato il matchbox, ecco perché segnava stazionare. Adesso uno e uno. Vai 3-4 canali più avanti, perché canale a fianco mi abbassi il segnale e te l'amico che sta modulando, capito? Sei troppo vicino alla zona mia. Cavagliava. Ora sono con 5 watt, guarda come va. È troppo gracchiata come radio. Troppo Gianni. Abbassa un po' perché è metallica molto. Abbassa come? Abbassa. Abbassato. Vedi, adesso vai bene, perfetto. Amplificata è chiara. Va bene, dai, faccio da bravo adesso. Adesso provo dorato che stavo parlando. Non lo senti. Fai da bravo Gianni, fai da bravo. No, non me ne sono accorto, se no non l'avrei fatto. Cristian, ma sei fermo? Sì, sono fermo, perché? No, così. Per saperlo. Ma c'è un altro più basso ancora, che è? Sono nel parcheggio, perché sto aspettando un amico che so da Uri, che lì a scuola tennis. Se sale col pullman, capito? Gianni, ma è preparazione quello che sento io. Senti? A me sta dicendo il torino. E non senti niente, tu sei pilota di me, non senti niente. Non potevo sentire. Attenzione, io sento la gente da fuori. Ma Santiago si sente? Ma io ho sentito qualcuno ma basso, non riesco a sentirlo bene. Vabbè, attenzione sul canale 10, chi c'è avanti? Attenzione amico, che stava modulando sul canale 10. Allora è propagazione, dai. Dimmi. Mi, un altro. Sicuramente propagazione, eh. Infatti quando modulavo quelli lì, poi parlava Cristian, sentiva l'innesco di sovramodulazione di Cristian. E quel fischio. Lobo. No, mi sono sovramodulare. Sono modulato, ti ho preso. Io ho trovato la macchina accesa, fai bravo. Questo qui è un apparecchio che lo uso, però è bello come apparecchio, esce bene. Cazzo. Bello, da ogni appicchio che va, io ce li ho qua, picchi positivi stanno, e a voi? No, quando muore qua, picchi negativi. No, no, io qua mi vedo, c'ho cross metro watt, metro, e i picchi sono positivi, anche nello Smith. A te ti può dare picchi positivi perché sei tutto attaccato lì e boh. Però in lontananza, in ricezione, qua arrivi negativi. Se vuoi ti faccio il filmino te lo faccio vedere. Cristian, come sono i picchi da te? Guarda. Ora. Qui c'è la fondo scala, tutti i led accesi io. E picchi non ne hai, né negativi né positivi. Cerchi a letto, non lo puoi vedere. Invece io sono squitter professionale, qua si vede tutto chiaro chiaro. Oh già, se non ci credi ti faccio il filmino, però vado, non c'ho problemi. Oh, già ci credo, ma magari dipende dall'antenna tua, io ci credo, Turi. È strano, non me l'hanno mai detto, mi hanno detto sempre che erano positivi i picchi. Poi deve essere adesso i picchi stanno facendo un nido. Adesso è vero un picchio di Massimo con l'antenna. La lontana mia è perfetta, perché Antonio arriva perfetto qua. E qui c'è lo stesso, picchi sono sempre nulla, è perfetto, fermo stabile proprio lo Smith. Non si possono fare comparazioni perché a Cristian gli ho inchiodato lo Smith. E poi c'è i LED, quindi capirai. Cosa mi è successo invece da poco? Che il figlio di mio compare, che è mio nipote tra l'altro, a scuola gli ho messo un compito di elettrico, ho dovuto fare un tipo plastico piccolino con l'impianto, ho messo che ho pintato già, con l'interruttore, tre lampadine, un casino, in serie e in parallelo, due cose ho fatto. Me l'ha preso 7 e mezzo, perché ha studiato, e però rispetto, non è stato bravo come io, gli ho spiegato abbastanza bene, lui invece a modo suo comunque, ho preso 7 e mezzo e voto, già è rimasto contento lo stesso. Cosa mi tocca a fare? Vabbè. Sei contento, l'interessante è quello. Cava cava. Io ne so, ma non vedi, mica c'è anche Tore, Tore Ghetto. Tore sarà in pensione, ci siamo dimenticati. Tore, aiuto, muoviti. Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo, se n'è andato, che? No, boh, che c'è Marco. Ah, va, vedi tu. E da niente che c'è avuto, come era abbandonato. Allora, c'erano due che erano malati al Sacro Cuore, quando ci va la messa, uno diceva a fuori, a fuori, a carrera, a carrera, a carrera, a carrera, e l'altro, boh, boh, chi si ammacco. Ieri mi sono messo a caricare il baufetto, poverino, sempre il povero, non ho più usato, che... andare, poverino, guarda, mi fa una pena, mi sa vedere, c'è il carico adesso. Cristian. E te, E là, mi ho avviato il sugo adesso. A notte il sugo col tonno. Sei buono che quello, ma io sono pensato a pomodori, spero che è tonno. A notte il sughetto col tonno. Guarda che porto il grigio nero di seppia, blu, ma magari chi non ne mangia. Ma la parte è pesante la notte, a tu. Sì, già digeriamo, poi dopo ci andiamo fuori sala. Oh già. Oh, ho contato 40 contenitori di gelato a mezzo chilo, che l'avevo messo lavati, asciugati e messi in sgabuzzino. Un paio di contenitori. Ne ho preso 40 confezioni. Beh, in tutto l'anno scorso d'estate. Poi ho messo una parte, lavati per asciugati e messo una parte. Quando dice il contenitore ce l'ho. Boh, ma così ti voglia mangiarlo, che non è un bel, perlomeno a me mi piace così, se non è un bel non vedo l'hai finirlo. No, adesso sto facendo il gelato in casa, che è diverso. Beh, vabbè. E adesso mi d'estate, bisogna fare il rifornimento. No, perché ti fate male già, non le puoi mangiare. E prendo quelli misura, quelli senza zuccheri, senza glucosi. Senza lattosio, è sempre gelato, eh. Sì, oh, yeah. Dori una cosa, ti dico, si vive una volta solo. E quindi se quando vivi va a vedere, basta un attimo, dico di un colpo e si rimane. Ui, cosa stai a... Sì, io mi regolo durante la settimana, ma una volta alla settimana lo puoi fare, non sta. Ma io la mattina a volte capita che me lo sono chiedato e esco, poi quando mi trovo fuori, se mi sento un pochettino strano, mi mangio una pasta, non me ne faccio più, mi un caffè e gioco pure. Boh, vabbè, dai, io vi lascio che devo andare giù, questo qui si sta lamentando, vuole scendere, dai, un pochino. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, un bacio ai bambini, ciao! Capo, anche io me ne vado perché devo guardare tra poco inizia il telegiornale. Ciao Antonio, buca le cavatterie, ciao anche a Coso, a Gianni, buona passeggiata con Tyson, ce la sentiamo le prossime, e buon carico quando lo farete. Ciao ciao! Ciao ciao, ci risentiamo! Alla prossima, ciao ciao! Ciao a tutti, ci sentiamo, buona serata. Ciao ciao.